later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce del giorno non riesce mai a penetrare, Kappa e Drago si contendono un po' di paglia. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Mollala, no, ehi. No, Drago, lascia, no, stare. Come lascia stare? Dai, l'ho vista prima io. Ma chi lo dice che l'hai vista prima tu? L'abbiamo vista insieme. Era lì per terra, facciamo a metà. Ma dimmi tu se dobbiamo litigare per la paglia. Fosse erba, è solo paglia. È paglia, Kappa, a dormire sul pavimento. Senza il materasso ci abbiamo provato. Sì, io non ci riesco. Nemmeno io. La paglia è l'unica soluzione, paglia, Drago. Sì, sì. Però quella che c'è, i polli la difendono bene, quindi sì, non è vero, perché anche senza becco danno fastidio. Si mettono a svolazzare tutti intorno. Non c'è modo di potergli rubare un po' di paglia. Dobbiamo solo dormire. Vabbè, per forza. No, ecco. I polli non possono fare a meno della paglia, eh? Ho capito. Pollo in sbattimento. Tu nel tuo ambientino la paglia ce l'hai, eh? Eh beh, certo. Eh beh. Il mio ambientino è confortevole, eh? Fa schifo, ma è confortevole. C'è paglia in abbondanza, c'è il frigo bar dove tengo lo yogurt. Lo yogurt? Eh sì, Ma no, niente, pensavo champagne, vodka, cose no. Così, invece lo yogurt. No, lo yogurt. Lo yogurt che fa campare 100 anni, Ma non era la birra che faceva campare 100 anni? Ma no, è lo yogurt. Cosa dici? I fermenti lattici. E quelli, guarda, che ti reggono la flora intestinale, E poi dopo tu vai che è un piacere. Ma vai dove? Dove? Indovina un po' dove vai. Ma vai. Smettetela, ma basta, ma cosa fate? Ma cosa è? Ma Drago? No, vabbè. La scatologia improvvisamente ti dona il sorriso e la gioia di vivere. No, mi fa solo fare... Sì, appunto. Perché, scusate, serve della paglia? Beh, sì, pensavo l'avessi capito. È difficile rubarla ai polli, quindi tu potresti darci una mano, no? Beh, per me non è un problema, Cosa? Il fatto che voi abbiate bisogno della paglia. Sì, ho capito che non è un problema per te, ma ti dicevo, non puoi trovarcene un po'? Beh, sì, dipende, no? Dipende da quello che mi date in cambio. Ma cosa fai adesso? Ma bisogna contrattare con un pollo per un po' di paglia. Sì. Ma cosa? Ma io me ne vado, basta, io me ne vado. Poi allora, qui le cose stanno così. O ti va bene, oppure dormi sul pavimento, pieno di escrementi. Appunto. E allora? Ma allora cosa vuoi in cambio? Dovete produrmi il disco. Ma quale disco? Il mio disco. Vabbè, dai, Kappa, digli che faremo il disco. Fai il diplomatico come solo tu sai farlo, dai. Sì, va bene, Pollo. Allora faremo un disco con te. Oh, sì. Allora, basta che ci trovi, non so, un mixer, ci vorrà, un paio di preamplificatori, un computer, magari con Pro Tools, dei microfoni, un po' di strumenti anche, naturalmente. Insomma, sono tutte cose che qui, in questa fabbrica di polli, si trovano facilmente, vero? Pollo in sbattimento. Ma cosa ma va? Ma poi basta un mini disc. Un mini disc, anche se molto specifico. Ma certo, ma è come nella tradizione folk, no? Come Alan Lomax, registrazioni sul campo, in diretta, Sì, in diretta, ma tu non vuoi fare un disco folk, pollo in sbattimento, non sei mica Johnny Cash. No, il mio disco sarà Kraut Rock. Kraut Rock e rock anni 70. No, vabbè, ma Pollo, il rock anni 70 era super prodotto, era pieno di arrangiamenti, di sovraincisioni. Mi spieghi come fai a registrare un disco in quello stile con un semplice mini disc? Mi spiegare. È così, no? Dandera, dandera, dandera, dandera, dandera. È così. Televisore acceso, libro spalancato, panino scaldato e birra stappata. Ecco, sono pronto per lavorare. Le notti di un casellante sono così, come prepartita da divano, le convalescenze. Si affrontano solo con i generi di conforto da tempo libero. In fondo anche gli altri lavori sono solo uno scambio tra tempo e denaro. Ma di solito c'è anche il valore aggiunto di una tecnica, dell'iscrizione all'albo, del passaggio di mano di una merce, magari. a coprire il baratto nudo della propria vita in cambio di soldi. E qui no. Io arrivo, aspetto, me ne vado. Ogni tanto prendo dei contanti da gente che passa sotto il mio gabbiotto e li do all'azienda. In cambio di questi contanti l'azienda mi fa un bonifico che si chiama stipendio. Semplice. Il mio lavoro non serve a nessuno. E infatti la maggior parte dei miei colleghi sono macchine con una vocina gracchiante. Macchine, tra l'altro, molto più gentili di me con gli automobilisti. In 10 anni di servizio non ho mai augurato buon viaggio, mai consigliato di guidare con prudenza a nessuno. Anzi, se arrivano storditi dalla vodka, per esempio, è meglio, meglio. Mi segno il modello della macchina. Apro un giro di scommesse via interfono con gli altri. Controlliamo sul giornale e chi prende più pedaggi da gente che sta per fare un incidente ha vinto. E non li guardo mai neanche in faccia i clienti. Sono solo un momento del programma della serata che prevede cibo, TV e appunto il videogame dell'ubriaco al volante. E in fondo stare qui è divertente. Non è molto diverso dalle serate che passerei a casa. Eh sì, io godo di un privilegio da principe, perché per me il lavoro è solo un'interruzione molesta nel flusso ininterrotto dei cazzi miei. Casellante sempre triste, nel tuo cubo di frontiera, quante macchine avrai visto, da mattina fino a sera. Casellante sei annoiato, non mi degni di uno sguardo, tu ti sei accorto che ho pagato, mentre guardi e riguardi la TV. Casellante adesso ascolta Radio 3, che stanotte si parla anche di te. Casellante, non è vero che sei trasparente. Casellante, Casellante, sei importante. Senti, Drago, i mercenari invocano un Jute e lui si è chiuso nella sua limousine da non so quanto. Ma cosa facciamo? Non lo so, un Jute Bomaye. Accidenti allo sciamano che si è schiantato con l'aereo. Io ho un'idea, perché non ti travesti da sciamano e gli dici che sei il cugino di quello che è morto? Ma chi, io? Ma sì, dai, un po' gli assomigli. Ma come gli assomiglio? Era un gorilla, tale quale al colonnello Ungiute. Vabbè, ma basta un po' di trucco. E poi non parlo mica franco congolese, scusa. Hai studiato tanto tu da giovane? Sì, vabbè, ma altre cose. Dai, Drago, su, secondo me è un'idea fantastica. Vabbè, guarda, sì, chiamo certo l'amministratore delegato per chiedere il suo parere. Ma secondo me lui è dalla nostra parte. Dalla tua o dalla mia? Attenzione, il numero selezionato è inesistente. No, niente, continua a negarsi. Magari è scappato, no? Non lo so, è strano. Vabbè, senti, Drago, non ci preoccupiamo. Dobbiamo solo far sì che il colonnello Ungiute decida di andarsene senza danni ulteriori. Vabbè, sì. E l'unico modo per farlo è che uno sciamano, cioè tu, Drago, lo convinca con le buone. Anch'io ho un'idea, travestiti tu, no? Ma no, Drago, guarda, sono troppo alto. Vabbè, dici che sei un Watusso, sono un Watusso, un altissimo negro. Ah sì, altissimo negro. I Watussi sono in Ruanda, Drago, non in Congo. Vabbè, quindi non funziona. Ma Ungiute che ne sa di queste cose? Lo sa. Poi piantala, Drago. Tu sei il prescelto. Ma quale Drago, quale prescelto? Drago, tu sei il prescelto! Egli ti chiamò a sé il terzo giorno della seconda settimana del quarto mese del sesto anno della grande cattività. Egli ti chiamò a sé e ti disse: tu, Drago, sei il prescelto. Che cosa succederà adesso? Drago è davvero il prescelto per impersonare il cugino dello sciamano del colonnello Ungiute? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo inconfessabile allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barnumen.